L'almanacco dell'altro ieri. L'altro ieri, 1° giugno, era il 153° giorno dell'anno. Il sole sorgeva alle 5:38, tramontava alle 20:38. La luna, crescente, sorgeva alle 15:30, discendeva alle 3:08. La sua illuminazione era del 66%. Potevate nell'orto oppure in vaso cogliere le piante da radici, lavorarne la terra o trapiantarle. L'altro ieri avvenne. . 1307, Fra Dolcino, dopo essere stato costretto ad assistere al supplizio dell'amata Margherita e dopo devastanti torture, viene arso sul rogo a Vercelli. 1495, il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. 1533, Anna Bolena è incoronata regina come consorte di Enrico VIII di Inghilterra. 1869, Thomas Edison riceve il brevetto per la sua macchina elettiva elettrica. 1924, 12ª tappa del Giro d'Italia. 1938, in Germania, Heinrich Himmler ordina la deportazione di asociali, rom, vagabondi e prostitute. 1962, le curde e i curdi rivendicano presso l'ONU il loro diritto all'indipendenza. 1980, la Cable News Network, CNN, inizia le sue trasmissioni. 2009, la General Motors avvia la procedura di bancarotta. È il quarto maggior fallimento della storia degli Stati Uniti. Ci raccontano la storia di Anna Bolena, le ragazze dell'almanacco. Approfondimento dell'almanacco dell'altro ieri a cura di Maria Elisa di Rivombrosa e Banana Naio. La storia che vi stiamo per raccontare è zeppa di intrighi, streghe e sotterfugi, teste che cadono e esseri mostruosi. Potrebbe sembrare l'inizio di un horror, ma in verità non è altro che un pezzetto della storia fondativa dei bianchi occidentali che vi circondano. Il 1° giugno del 1533, incinta di 6 mesi, Anna Bolena viene incoronata regina d'Inghilterra e d'Irlanda nell'abbazia di Westminster. Per parlare di Anna Bolena, purtroppo, siamo costretti a parlare anche di Enrico VIII, meglio detto Enrico Ottaro, quell'infame. Anna nasce in una famiglia di arrampicatori sociali, ricchi mercanti della campagna del Kent, proprio quelli che in gergo definiremo bidocchi rifatti. Basti pensare che nascono come famiglia Bullen e per darsi un tono cambiano cognome e si fanno chiamare i Boleyn. A 12 anni la nostra Anna inizia a bazzicare le corti d'Europa come damigella d'onore. Ovviamente, data anche la sua bellezza, il padre l'aveva già piazzato con un buon partito, Sir Lord Harry Percy. Ma questo matrimonio non sa da fare, perché lei è destinata a un altro Harry, un altro Enrico. E mentre la civetta a corte, fra una gragliarda e un'allemanda, le danze del tempo, il re Enrico VIII posa gli occhi su di lei. Enrico VIII, che già si era fatto le tresche con la sorella di Anna Bolena, per ora è sposato con la casta Caterina I di Aragona, con cui ha già avuto la dolcissima Mary, detta anche Mary la sanguinaria o Bloody Mary, colei che da grande avrà come vizietto le persecuzioni dei protestanti. Ma torniamo al nostro Enrico VIII. Lui, infame, sessista e femminicida, è follemente innamorato di Anna ed è talmente ridicolo da inviarle lettere con cuoricini trafitti, ma da inviarle anche delle belle chilate di diamanti e smeraldi. Anna è figlia di Ripuliti, sa come se la deve giocare. I suoi nonni da mercanti di lana sono divenuti lord. Beh, l'attitudine la scalata sociale ce l'ha nel DNA. Quindi tira, tira, tira e ritira ancora, e Enrico VIII capisce che l'unico modo di possederla è sposarla. Tuoni e fulmini si abbattono sul regno d'Inghilterra, perché nel frattempo la nostra morigerata Caterina d'Aragona, ancora sposa del suo Enrico, viene mollata. Ma non con un messaggino o una vile chiamata, bensì, di nuovo fulmini e tuoni, lei viene lasciata con uno scisma, quello passato alla storia come lo scisma anglicano. questo che vuol dire? Vuol dire che per annullare questo matrimonio Enrico mette in piedi un tribunale ecclesiastico. Accusa Caterina di non potergli dare figli maschi, si mette contro la metà delle teste coronate d'Europa e arriva addirittura a farsi scomunicare da Papa Clemente VII. Certo, comunque la scissione mezzo a lui gli conveniva, perché a quanto pare le decime da inviare a Roma aumentavano di anno in anno. Dunque Enrico VIII con questa mossetta si assicura con una fava due piccioni. A farla breve, in un sol colpo si toglie da torno la moglie triste e il Papa cagacazzi. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Nel 1533 Anna Bolena finalmente ottiene quello per cui era predestinata, i soldi, e una corona che tutto sommato non guasta mai. E durante la sua incoronazione Anna è incinta e Enrico VIII non vedeva proprio l'ora di abbracciare il suo delfino, anche perché tutti i maghi e gli astrologi di corte convenivano col sesso maschile del nascituro. Ed è il 7 settembre del 1533 che nel primo pomeriggio, dopo strazianti ore di doglie, nasce l'erede. Robusto, bel faccino, ma che bei capelli rossi del padre e quale meraviglioso ovale, come il viso della madre. Ma ahimè, il sospirato erede è una femminuccia. Altro che tuoni e fulmini, qua proprio un tornato a corte. Enrico VIII poi di base è stufarello e questa figlia femmina per lui diventa il pretesto per lasciare Anna Bolena e gettarsi di nuovo in un inseguimento amoroso dietro all'algida Jane Seymour. Ma è un re prevaricatore e violento e non può aprire un'altra relazione d'amblè, e come aveva fatto con Caterina d'Aragona mette in campo tutto quello che può per togliere di mezzo Anna Bolena. Tralasciando il gossip di corte che lasciamo a Giacobbo di turno, però immaginatevi che a corte succede veramente l'impossibile: accuse di incesti, false dichiarazioni, torture e corruzioni. E alla fine Enrico VIII riesce ad accusare Anna di alto tradimento. La imprigiona nella Torre di Londra e dopo soli 3 anni dalla sua incoronazione Anna Bolena viene decapitata e non arsa viva perché ormai era una nobile. Beh, il disprezzo che proviamo per Enrico VIII mi sembra sia emerso abbastanza, ma la rota gira e la storia pure. Ed ecco che morto Enrico VIII sale al trono l'unico suo figlio maschio, il principe Edoardo, che a 16 anni tira le cuoia. Ed è il turno della cattolicissima Bloody Mary, che dopo 5 anni di corona e svariati stermini di protestanti schiatta pure lei. E così dopo lo smilzo da sanguinaria arriva il turno di Elisabetta I, l'unica figlia di Anna Bolena, che regala all'Inghilterra mezzo secolo di prosperità. Che smacco per Enrico e la sua misoginia. Anna Bolena ancora se la ride dalla tomba. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Bicycle, bicycle, bicycle. Una sola grande passione sin da quando era piccola, la bicicletta. Proprio per questo Alfonsina Morini venne soprannominata il diavolo in gonnella. Era solita sfrecciare all'interno delle stradine del suo paese con la bici di famiglia e sebbene i suoi genitori non assecondassero, anzi osteggiassero questo suo amore per le due ruote, lei non si diede mai per vinta. Fu poi il marito a regalarle il giorno del matrimonio una nuovissima fiammante bicicletta da corsa. Determinata a lasciare il segno, Alfonsina, dopo una brillante carriera nel ciclismo femminile, fu la prima e ultima donna che riuscì a partecipare prima al Giro di Lombardia e poi, nel 1924, al Giro d'Italia, competizione riservata ai soli uomini. Dei 90 corridori alla partenza da Verona, solo 30 riuscirono a tagliare il traguardo a Milano, il 1 giugno. Tra questi c'era anche Alfonsina. Negli anni a venire le impedirono di partecipare, ma lei non si arrese e continuò a gareggiare con successo in altre competizioni, collezionando ben 36 vittorie. La sua vita si concluderà nel settembre del 59, in seguito ad un incidente in moto. Anche se aveva abbandonato la sua bicicletta, la passione per le due ruote non era venuta mai meno. Sono il Kurdistan, sposo della terra, luogo di eroine, di eroi e di grandi battaglie. Sono fonte di vita, terreno fertile dell'esistenza, e resto in vostra attesa dando vita al sole. Il Kurdistan è una regione storica che abbraccia 5 differenti stati: Turchia, Iraq, Iran, Siria e Armenia. Al suo interno vive la popolazione curda, la cui origine è irachena e i cui discendenti sono identificati nell'antico popolo dei Medi. Nonostante l'identità etnica dei curdi è ben definita, essi non hanno alcuno stato e la cui nascita rappresenta la principale aspirazione futura di gran parte della comunità curda. I curdi e le curde hanno sempre abitato nel corso della loro storia a cavallo tra Anatolia e Mesopotamia, oltre che in altre regioni del Medio Oriente. Così come gran parte della popolazione di questa parte dell'Asia, anche per i curdi e le curde arriva intorno al VII secolo d.C. la conversione alla religione musulmana. Attualmente la stragrande maggioranza dei curdi e delle curde professa l'Islam sunnita, anche se non mancano delle minoranze, come per esempio gli Yazidi. La lingua curda parlata da gran parte dei curdi e delle curde è una lingua delle famiglie iraniche ed è indoeuropea. Non ha però lo status di lingua ufficiale in tutto il Kurdistan. Solo alcuni stati riconoscono il bilinguismo per le regioni a maggioranza curda. All'indomani della fine della Prima Guerra Mondiale, dunque, con la sconfitta degli ottomani nel 1920 con il Trattato di Sèvres, viene deciso che quella parte di impero ottomano storicamente abitata dai curdi deve divenire Kurdistan indipendente. Per la prima volta dopo secoli i curdi e le curde assaporano quindi la nascita di un proprio stato. 3 anni più tardi però la premessa fatta dalle potenze vincitrici della prima guerra mondiale viene disattesa. Nel 1923 infatti viene firmato il trattato di Losanna che dà vita all'odierna Turchia, i cui confini comprendono anche le regioni che sarebbero dovute invece essere assegnate al Kurdistan indipendente. La regione viene quindi divisa tra Turchia e le zone di influenza francese ed inglese che poi daranno vita agli odierni stati di Siria ed Iraq. Divenuti minoranza nei nuovi stati nati negli anni 20 del secolo scorso, i curdi vanno quindi incontro a momenti di emarginazione. Soltanto nell'immediato secondo dopoguerra si registrano importanti tentativi volti alla costituzione di un Kurdistan indipendente. Nel 1946, alla parte iraniana del Kurdistan viene proclamata la Repubblica di Mahabad. Un tentativo che però fallisce dopo appena 11 mesi. Nessuna delle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale appoggia la neonata Repubblica, capeggiata da Qasid Muhammad, uno delle figure più importanti dell'indipendentismo curdo. Il Kurdistan assume così l'aspetto attuale, ossia quello di una regione divisa tra diversi stati. 20 dei 50 milioni di curdi che abitano in questa regione risiedono nelle regioni sud-orientali della Turchia. La questione curda nella Repubblica Turca è una delle più incalzanti tematiche che contraddistingue il dibattito nel paese anatolico. I curdi e le curde costituiscono infatti un quinto della popolazione della Turchia, ma soprattutto nei primi anni viene negato loro il considerarsi curde e curdi. Già negli anni 30 la definizione di questa popolazione data da Ankara è quella di turchi delle montagne. La prima formazione che recepisce il malcontento e le istanze delle curde e dei curdi della Turchia è il PKK, nato nel 1984. Oltre alla lotta per l'indipendenza curda, il movimento porta avanti le istanze marxiste e leniniste sotto la spinta del leader Abdullah Öcalan. È lui la figura di riferimento dei curdi e delle curdi in Turchia. Per tal motivo diviene nemico numero uno di Ankara. Catturato in Kenya nel 1999, attualmente Öcalan è in galera a seguito di una condanna all'ergastolo. Dalla prigione Öcalan ha pubblicato diversi libri, il più recente nel 2015, La genealogia, nota anche come Scienza delle donne. È una forma di femminismo sostenuta da Öcalan e successivamente un principio fondamentale dell'unione della comunità del Kurdistan. Il PKK è considerato dalla Turchia come un'organizzazione terroristica e dalla formazione vengono imputati diversi attacchi contro obiettivi militari e civili tra gli anni 80 e 90. Nonostante la prima apertura di un dialogo negli anni 2000, lo scontro con lo Stato centrale appare netto ed oggi la Turchia, guidata da Erdogan, persegue i vertici del PKK come capi terroristi. A livello politico, a sostenere la causa dei curdi nel paese anatolico sono tradizionalmente i partiti più di sinistra. In Iraq, il Kurdistan invece occupa una porzione della parte nord-orientale del paese. Per arrivare alla costituzione della regione autonoma, i curdi e le curde in Iraq hanno dovuto patire parecchio. I rapporti con il potere centrale di Baghdad non sono mai stati ottimi, sia durante la monarchia che nelle successive forme di stato del paese arabo. Il PDK è il Partito Democratico del Kurdistan. Nel 1970 si arriva alla firma di un accordo con il governo iracheno, in cui c'è anche un giovanissimo Saddam Hussein. Poco dopo si rivelerà un acerrimo nemico della questione curda. La regione del Kurdistan iracheno è sconvolta da almeno 4 insurrezioni, una delle quali finì con il bombardamento chimico nel 1988. Nel 2003 la caduta di Saddam comporta per le curde e i curdi la possibilità di vedere inserita all'interno della nuova costituzione la nascita di una regione autonoma curda con un proprio governo ed un proprio parlamento. La regione autonoma del Kurdistan sarà realtà solo a partire dal 2005. Poi ci sono le curde e i curdi che abitano in Siria e occupano la parte occidentale. In curdo, occidente viene indicato con il termine Rojava, da qui la denominazione con la quale gli stessi curdi e curde riconoscono le regioni siriane da loro abitate. In Siria esistono delle aree contraddistinte dalla presenza curda, ma nel contesto dell'intero Kurdistan il ruolo dei curdo siriani è sempre stato molto importante. Proprio qui, ad esempio, Öcalan ha organizzato il PKK. Nel 2012 i curdi e le curde, trainate dalle fazioni della JPJ-JPG, si auto-organizzano e prendono il controllo delle aree da loro maggiormente abitate. Nasce così la regione del Rojava, controllate dalle milizie curde e autonoma da Damasco. Dal 2014 la JPG intraprendono una lotta contro l'ISIS, il quale avanza nelle aree attorno a Kobane. La prospettiva della formazione di una vasta regione autonoma curda lungo il confine con la Siria agita la Turchia di Erdogan non poco, che per tal motivo dal 2016 inizia ad attuare operazioni militari all'interno del territorio siriano. Nel 2018 Ankara lancia l'offensiva denominata Ramoscello d'Ulivo, con la quale viene occupato il cantone di Afrin. Nel 2019 invece analoga missione viene lanciata in gran parte del Rojava. Qui finisce l'almanacco, un saluto a tutte e tutti e un pensiero forte a tutte quelle e tutti quelli che resistono. È finita la commedia.